piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non solo ombrelloni e sdraio isolati dal plexiglass, per gli operatori turistici è facile prevedere una marea di prescrizioni per ciò che concerne l'igiene, dall'accesso scaglionato alla spiaggia all'installazione di igienizzante nei bagni, al bar, negli spazi comuni, alle docce, senza dimenticare la necessità delle mascherine per stare all'aria aperta, la possibilità di scaglionare gli accessi in base alla fascia d'età e la prenotazione obbligatoria prima dell'accesso agli stabilimenti balneari. D'altra parte, il sottosegretario al MIBACT, Lorenza Bonaccorsi, con delega al turismo, è stata chiara. Andremo al mare questa estate, stiamo lavorando per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il Comitato Tecnico Scientifico che contemplano l'ipotesi di un distanziamento. Immagino che per molti sia un non problema, un falso problema quello delle vacanze. Mi trovo tra queste persone, ma è una mia personale, soggettiva situazione, non tenetene conto, non vado mai in vacanza. La mia vacanza è il mio condizionatore, è la mia bottiglia nel freezer, questa è la mia vacanza. Ma per molti non è così. Questa è la stagione canonica in cui le persone, in teoria, in una situazione normale, avrebbero già preso le loro decisioni, avrebbero cominciato a prenotare, avrebbero approfittato delle vacanze pasquali per andare a mettere a posto, pulire, dare aria alle pareti, alla seconda casa. Tutto questo sappiamo benissimo, senza entrare nei particolari, che non è potuto accadere. Quindi oggi ci troviamo di fronte a un grossissimo problema, sembra trascurabile di fronte al senso di perdizione generale che abbiamo di ogni nostro desiderio, di ogni nostra ambizione, contemplando le liste dei morti, avendo angoscia per il nostro futuro, sentendosi in ambascia e lecita per l'andamento dell'economia, ma anche per la nostra stessa sopravvivenza, non dovremmo pensare alle vacanze, ma sono convinto che molti ci pensano. Ci pensano innanzitutto gli imprenditori che hanno come loro attività principale quella di gestire il traffico vacanziero. Penso che sono 4 milioni e passa i lavoratori impegnati nel settore delle vacanze, è il 13% del nostro PIL, già ci sono le previsioni che perderemo 40-50 miliardi, chi dice addirittura 60-70 miliardi quest'anno per le mancate vacanze. Come avete sentito nel servizio che ci ha preceduto, qualcuno sta già pensando che comunque il problema vada affrontato. Infatti la sottosegretaria al turismo, Lorenza Bonaccorsi, in un'intervista ad Avvenire, ha messo alcune ipotesi che ci potranno essere vacanze contingentate, ci potranno essere ad esempio un credito d'imposta che compensi le persone che perdono denari per le mancate vacanze, e ci potrà essere una sorta di bonus individuale per permettere a tutti di poter ambire a qualche giorno di vacanza. Si parla di poche centinaia di euro, quindi sono quelle cose simboliche, ma se ne parla in termine vago, come tutto è vago oggi. Comunque ci siamo voluti porre come domanda il fatto: sì, ma voi ci pensate che comunque qualcuno vorrà andare in vacanza? In questo momento stanno girando la fancazzola su questo, sta appassionando un po' tutti un'immaginetta fatta, un rendering fatto al computer, in cui ci sono delle spiagge con delle separazioni in plexiglass tra ombrellone e ombrellone. Ma chiaramente è totalmente impossibile solo pensare sia attuabile. Pensate quanto debba costare a ogni gestore di spiaggia mettere quattro pareti plexiglass alte almeno 2 metri fra un ombrellone e l'altro. Faccio una cifra ipotetica, sapendo quanto può costare un box doccia che è molto più piccolo, ci vorrà qualche migliaio di euro per ogni ombrellone. E ammesso che lo faccia, per paradosso, se è un pazzo che vuole buttare via i suoi averi, beh, chi mai andrà al mare stando dentro un box di plexiglass? E ammesso anche sia gente così idiota da preferire questo piuttosto che lo stare a casa, e poi tutte le fasi intermedie, la passeggiatina sulla spiaggia, i bambini che corrono, i castellini di sabbia, la gitarella al bar per prendersi l'aperitivo, mangiare al ristorantino, passeggiare, è impossibile. Quindi in maniera piuttosto realistica abbiamo chiesto ai nostri creatori di sondaggi di fare tre domande che divide in tre categorie i possibili atteggiamenti nei confronti delle vacanze. Si dice di tutto: chi va all'estero dice, ma io vado all'estero, sì, all'estero dove? Con le frontiere chiuse per il coronavirus. Ebbè, ma ci faranno un'app che ci permetterà di tracciarci e di capire la gente che infetta. Ma pensate solo, per rendere compatibile questa idea, che è già impossibile, la vedo molto difficile, realizzabile alle nostre latitudini per un'app nazionale, figuratevi un'app che possa dare garanzia a stati dove normalmente si svolge il turismo di massa, quindi parlo dei posti anche più lontani, più esotici, che arrivano gli italiani con la loro app e tutti stanno tranquilli. Insomma, siamo realistici. Chiamate l'800240024, diteci in quale di queste tre categorie vi sentite maggiormente rappresentati e vediamo di sapere qual è la media nazionale rispetto a un problema che molti si stanno ponendo proprio in questo momento. Tra i tanti problemi che il contagio da coronavirus sta creando, c'è anche quello delle vacanze, che coinvolge sia gli imprenditori, sia gli italiani ansiosi di poter recarsi nei luoghi di villeggiatura a quarantena finita. Ma certo è che i nostri weekend estivi non saranno più come quelli a cui siamo abituati. Come e dove passeremo il Ferragosto quest'anno? Nel quadro delle ipotesi, anche molto fantasiose, che sono state fatte per garantire allo stesso tempo salute e svago, voi come vi schierate? Chiamate ora all'800240024 e diteci se siete più 1. Vacanzieri fatal classisti. Trovo inconciliabile l'idea della villeggiatura con l'idea di distanziamento sociale. Piuttosto che spendere soldi a vuoto, meglio rinunciare. Chi ha la villa e la barca si godrà il mare e gli altri no. 2. Vacanzieri oltranzisti. Al mare non rinuncio. Pur di farmi un tuffo, sono disposto ad accettare severe limitazioni per l'accesso agli stabilimenti e ai luoghi di villeggiatura. 3. Vacanzieri antiproibizionisti. Inutile fare ipotesi di limitazioni. Già è stato difficile tenere le persone a casa in questi mesi. Quando farà più caldo sarà impossibile impedire agli italiani di riversarsi in massa in spiaggia o al lago. l'800240024, avete visto, tre categorie che più o meno rispondono a tutti i quesiti che oggi si stanno ponendo dal punto di vista istituzionale. Anche un noto virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha già messo le mani avanti in una sua intervista ad Ask News. Dice, ma attenzione, sì, ci spostiamo, ma dobbiamo comunque tenere sempre presenti tutte le condizioni che vi abbiamo detto come indispensabili, distanziamento. Non è che a luglio o agosto dobbiamo pensare che possiamo ritornare tutti a fare lingua in bocca, ma non è pensabile, non è proprio pensabile, a meno che si entri in una fase fatalista che abbiamo anche noi immaginato. Succeda quel che succeda, moriranno un po' di persone deboli, avremo una stirpe italica rafforzata da questa sorta di eugenetica forzata del coronavirus, perché alla fine questo è. Non volete mettervi le mascherine? Volete continuare ad andare a ballare nei locali? Volete andarvi a fare la birretta, la passeggiatina, l'acchiappo selvaggio con persone sconosciute? Se una volta bastava mettersi un preservativo e uno stava abbastanza sicuro, oggi ci vuole la tuta totale per avere sicurezza. E poi che fate? Quando siete tutti e due incellofanati dalla testa ai piedi, cosa fate? Beh, si possono fare tante cose, qualcuno potrà obiettare, pur di starsene soli anche questo è meglio. Vi riassumo, intanto cominciate a chiamare all'800240024 le tre nostre categorie: vacanzieri, fatal classisti. Non scherziamo, c'ha ragione Gianluca, piuttosto che andare a queste condizioni barbare, impossibili, vacanze contingentate, con i turni, perché ne so, andiamo in spiaggia 10 per volta, e gli altri che fanno? Aspettano, stanno chiusi dentro la pensione, nella pensione chi assicura che staranno tutti sicuri? Secondo, vacanzieri oltranzisti, ci vado, comunque cosa ci vado, quel che, sarò ligio a tutte le regole, però ci vado, mi metto nella paratia stagna, mi infilo i piedi dell'acqua un minuto alla settimana, rispetto tutte le file, rinuncio al bar, rinuncio all'aperitivo, ma ci vado, perché io al mare non ci so rinunciare. E l'ultima, i vacanzieri antiproibizionisti dicono: non ci prendiamo per il culo, ragazzi. Già adesso è stato difficilissimo convincere le persone a stare dentro casa 2 mesi. Era una stagione, tutto sommato, anche se mite, in cui la gente normalmente stava molto a casa. Adesso che comincia la bella stagione, come tenete gli italiani dentro casa? Piuttosto che impegnare tutte le forze armate, l'esercito, la marina, i sommergibilisti, i paracadutisti nella contenzione forzosa delle persone, liberiamo gli ovili, vadano tutti dove vogliono e poi a settembre faremo i conti dei morti. Sentiamo Michele da Rimini, buongiorno. Buongiorno Gianluca, no, io sono da Fregene, no, da Rimini. Ah, da Fregene, no, scusa, ho letto male io. Ma l'ho scritto da Rimini, ovviamente, io ovviamente sono per aprire gli stabilimenti balneari. Tu sei un imprenditore, quindi c'hai, diciamo, sì, la tua spiaggia, il tuo stabilimento. Certo, sì, certo, ho visto le fake news che sono girate ieri per internet e sono cose veramente improponibili. Quelle lì, certo, ti rendi conto? Certo. Sai quanto ti costerebbe? Ma solo non è solo quello, roba. Lei pensi se c'è un discorso di cambiamento termico, inizia a arrivare un vento fortissimo e fa volare tutta questa roba. Ma sì. Poi dopo 3 giorni diventano opache, perché si sabbia, sì, il plexiglass viene sabbiato, perché non è come il vetro. Ma non solo quello, quindi anche il sole lo fa diventare opaco. Diventa giallo. Ma sì, ma lì è stato bravo chi l'ha fatto. Ci hanno abboccato tutti, oggi ne hanno parlato tutti. E noi prendiamo lo spunto dalle fantasie. Sì. Anch'io mi potrei inventare le mascherine col boccaglio. Mettete la mascherina col boccaglio, potete fare il bagno, non ve la togliete mai. Le cazzate possono essere tante. Poi mi dici come affrontite il problema, però, perché il problema ci sarà, se pensi, indubbiamente. Noi stiamo cercando di affrontare il problema un'apertura graduale, cercare di fare un controllo per le spiagge, per quanto riguarda il distanziamento e tutto. C'è quanto, un po' di gente soltanto, a un certo punto tu dici basta, certo, ce ne stanno abbastanza. Prima facevi 100 persone, adesso potresti, ne farai 50, se sei fortunato, anche all'interno. Quindi metti gli ombrelloni distanziati. Certo, il problema sussisterà nel togliere i giochi dei bambini, perché altrimenti l'aggruppamento, oppure, i bambini saranno un bel casino, come li tieni fermi i bambini al mare? Quello è un altro problema, e il problema anche per l'incolumità dei miei ragazzi che lavorano con me, l'assistente bagnanti in primo luogo, se qualcuno si sente male, la respirazione bocca a bocca, l'avvicinamento, cioè. E certo, riportarti tutto, una pompa elettrica, per come fai, col compressore, come fai a dargli? No, si può fare col pallone ambo, però è tutto un problema che. Sì, ma lo usi una volta e usa e getta, poi devi disinfettarlo ogni volta. Certo, quello tutto, cioè lì è tutto usa e getta. Non lo sai, perché io vivendo a Roma, devo dire, una volta tanto il mare sarà splendido in questo periodo, immagino, perché le case, sì, non ci hanno dato nessuno. Bellissimo. Quello che sarà il paradosso è che il mare sarà bello in Italia come non è stato dagli anni 60. Per paradosso nessuno. Vabbè, allora Michele sta organizzando, quindi tu, diciamo, sei oltranzista, non rinunci dobbiamo, al mare come ma imprenditore. Noi dobbiamo aprire, non ci abbiamo possibilità. Eh sì, anche ma se perché metti caso che rimane questa ordinanza che la gente non può uscire, quindi tu apri, ma ci vai te e io il tuo cugino. Un attimo, al momento le spiagge sono tutte chiuse, proprio sigillate. Non si può neanche entrare a fare ristrutturizzazione, quindi la manutenzione ordinaria e tutto il resto è bloccata. Ma scusa, no, l'ordinanza si può fare manutenzione diciamo del verde pubblico, così può passare questa cosa come spiagge. No, ma le spiagge non si può. No, si abbassa il drone, c'è il drone che si abbassa e ti inizia a dire. E in questa stagione, normativa, diciamo, per capire, così definisco una categoria con te, in questa stagione voi già stavate pensando, diciamo, a pulire la spiaggia, a cambiare, a verniciare? Sì, sì, noi già stavamo lavorando sul territorio, poi come è arrivato, già erano aperti gli stabilimenti a Fregene, non tutto, però per quanto riguarda il ristorante e tutto il resto, la domenica prima del blocco totale, sabato domenica era pienissima Fregene, non ci si entrava più, sembrava una domenica d'agosto. A Pasqua è venuta gente comunque? Ma a Pasqua hanno fatto dei controlli incredibili, i vigili sono andati anche casa per casa, hanno suonato per vedere se praticamente i proprietari erano vacanzieri, come si dice, che venivano a aprire case, tonde case, oppure se stavano là, cioè c'è stato un controllo allucinante, gente è venuta ben poca, ma anche perché che vengono a fare? Giustamente, ma c'è anche gli appassionati del mare in solitudine, uno sta lì, si guarda al mare, fa una passeggiata, fa, di cosa fare volendo ce ne sarebbero, figurati. Allora andiamo avanti con Flavio da Siena. Flavio, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Lei quale categoria si riconosce? In realtà io credo di essere un po' su tutte e tre. Io però volevo dire una cosa importante. No, cioè, definiamo scusa a che parte si colla rispetto alle tre possibilità. Starsene a casa, andarci comunque o andarci senza rispettare nessuna regola. Selezionando alcuni posti un pochino meno affollati. Io ripeto, sono un amante del mare e probabilmente nascoste da qualche parte ho anche le branchie, però ci sono tante alternative per le vacanze. Cioè, un esempio, mia moglie ha un bellissimo agriturismo vicino a San Casciano dei Bagni, isolato completamente dal mondo, con poche camere, perché non fare la vacanza lì? C'è una bellissima piscina, c'è tutto. Quest'anno rinunciamo al mare, ci goderemo il mare in maniera migliore il prossimo anno. Sì, però lei anche avendo poche camere, lei, lo capisco, potrà tenersi la metà delle persone in piscina, non ci possono andare, questo è poco ma sicuro. Facciamo un tampone preventivo per tutti quanti prima di entrare in agriturismo, delle analisi, vediamo chi ha la possibilità di venire. Questa è un'idea, si mette l'ambulatorio e tampona le persone e entrano dopo la quarantena. Uomini e cani per tutti quanti. Vabbè, questa è, siamo per tutte le proposte. Claudio da Torino. Claudio. No. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Io la sento molto male, Claudio. Richiamate Claudio. Maurizio, provincia di Sassari. Maurizio. Sì, buongiorno. Sto chiamando, sono un albergatore. E niente, la domanda che forse non è nel vostro questionario del sondaggio, la domanda è da fare: si muore prima di Covid o di fame? Perché qua se non aprono le strutture ci sarà un sacco di gente che è una domanda si sta ponendo tutti per ogni argomento, va bene. Provo a fare qualcosa di diverso. Ok, uno si investe la sua come il tampone, ma il tampone stanno dicendo che anche non è al 100% affidabile. Sì, è un po' complicato. Adesso voglio entrare nello specifico, ma per avere la sicurezza al 100%, che in quel momento la persona è molto difficile, la persona non è portatrice di un possibile contagio, è molto difficile e lo trovo irrealizzabile farlo nella struttura. Quindi lei, diciamo, è vacanziero antiproibizionista e lei dice a questo punto riapriamo. No, allora, le proibizioni, qualche limite ci deve essere, ma se immagina uno va a prendere la brezza marina dentro un plexiglass. No, ma quella è una stronzata, si è inventato qualcuno per far parlare un giorno. Domani io mi invento la mascherina col boccaglio, l'ho detto, e tutti scriveranno le mascherine col boccaglio e le andranno a comprare, anche se non esistono. Questo è senz'altro. No, qua sicuramente hanno bloccato tutto e ha fatto dei danni che neanche la guerra. Però c'è un'altra cosa, lei capisce che è stato necessario. Laddove è stato rispettato il blocco sono morte meno persone. Assolutamente. Quindi... Io sono 2 mesi chiuso a casa quasi, quindi non è un problema. Sì, sì. La cosa è questa, bisogna vedere poi, o ci danno da campare loro, o se no qua c'è la gente che poi non muore di Covid o muore di fame, tutto lì. Ma infatti fra tante misure ci sono quelle appunto di un sistema di sostentamento per chi lavora nel turismo. Sono decisioni importanti. Decisioni difficili. Io vorrei però riservare a queste tre possibilità, così almeno definiamo un po' il campo di riflessione. Claudio da Torino, l'abbiamo trovato? Sì, buongiorno. Allora, Claudio. Buongiorno, io mi collocerei al 3. L'antiproibizionismo. L'antiproibizionismo. Fra l'altro c'ho un appartamento piccolo in Francia, ci devo andare in qualche modo, di mia proprietà. Se sta bene ai francesi farla entrare, tanto per cominciare, si aprono dei problemi che prima non c'erano mai posti. Ogni Stato naturalmente salvaguarda i propri cittadini da un pericolo reale, oggettivo, non simbolico, non legato alle paure, e quindi sarà tutto più difficile. Dovranno permettere alle persone di spostarsi. Lei può andare in Francia, io posso andare nella casetta che ho in Abruzzo, ognuno può andare lì. Poi bisogna vedere lì che tipo di vita si può fare. Lì, diciamo che a me piace andare lì perché è abbastanza isolato e non mi piace andare sulla spiaggia. A me mi piace però vede, l'ipotesi che abbiamo detto anche noi, tutti hanno una casetta isolata, un posto tranquillo, un posto dove non c'è nessuno, ma lei immagini il disagio del rancore sociale potrebbe sorgere rispetto a chi dice: lei, io vado in vacanza, ho la mia casetta isolata, allora, 100 persone sotto casa, parlo, dice vogliamo anche noi stare nella tua casetta isolata. Come si parla di prelievo forzoso, si parlerebbe di cogestione degli spazi privati isolati. Stiamo molto attenti, perché è un attimo che si scateni la furia. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle ghiapegliare, con i pesci in mezzo all'onde. Fra i tanti problemi che il contagio da coronavirus sta creando, c'è anche quello delle vacanze, che coinvolge sia gli imprenditori, sia gli italiani ansiosi di poter recarsi nei luoghi di villeggiatura a quarantena finita. Ma certo è che i nostri weekend estivi non saranno più come quelli a cui siamo abituati. Come e dove passeremo il Ferragosto quest'anno? Nel quadro delle ipotesi, anche molto fantasiose, che sono state fatte per garantire allo stesso tempo salute e svago, voi come vi schierate? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Vacanzieri fatal classisti. Trovo inconciliabile l'idea della villeggiatura con l'idea di distanziamento sociale. Piuttosto che spendere soldi a vuoto, meglio rinunciare. Chi ha la villa e la barca si godrà il mare e gli altri no. 2. Vacanzieri oltranzisti. Al mare non rinuncio. Pur di farmi un tuffo, sono disposto ad accettare severe limitazioni per l'accesso agli stabilimenti e ai luoghi di villeggiatura. 3. Vacanzieri antiproibizionisti. Inutile fare ipotesi di limitazioni. Già è stato difficile tenere le persone a casa in questi mesi. Quando farà più caldo, sarà impossibile impedire agli italiani di riversarsi in massa in spiaggia o al lago. 800 24 00 24, mi dicono che oggi esco un po' male, la fibra a casa mia è sempre la stessa, evidentemente c'è un calo generale di rete, ho spento lo spegnibile a casa mia, ho soltanto le macchine indispensabili per mandare in onda. Intanto ringrazio Andrea Roccabella che mi sta mandando in onda da Milano, Anita Panizza che è in assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Speriamo di arrivare fino alla fine, ma logicamente ci possono essere anche dei problemi. Fatemi sapere, scrivetemi se sentite magari particolarmente difficoltoso. Vedo il video, si vede un po' male, anche se mi sono messo la mia fida Atto Rianzo per portarmi fortuna attaccata alle mie spalle. Oggi stiamo toccando il problema delle possibili vacanze. È irrinunciabile per molti il diritto comunque di cambiare aria in questi mesi. Lo sarà ancora più stringente questo bisogno dopo mesi di reclusione forzata dentro casa. Bisogna organizzarsi. Noi abbiamo posto 3 ipotesi, tenendo conto di tutte le proposte, di tutte le domande che vengono fatte, le possibili risposte. Sono 3 categorie: vacanzieri fatal classisti, che trovano inconciliabile una vacanza tenendo conto delle norme di distanziamento sociale, piuttosto che spendere soldi e avere una vacanza mutilata, preferiscono stare a casa. La vacanza sarà soltanto per i fortunati che hanno la barca, che hanno la villa con affaccio sul mare. Vacanzieri oltranzisti sono quelli che comunque in vacanza ci voglio andare, perché è una condizione dello spirito andare in vacanza. Mi accontenterò di quello che passa al convento. Poche persone per volta, mascherine, percorsi obbligati, ma comunque ci vado. Terzi, gli antiproibizionisti, sono quelli che dice: inutile porre ancora limitazioni, la gente alla fine non ce la farà più e sfocerà in comportamenti socialmente difficili da contenere. Quindi tanto vale dire: ragazzi, è finita, andate in vacanza, divertitevi e poi faremo i conti a settembre. Isidoro, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Quale allora, categoria si pone? Io mi pongo a cavallo fra la prima e la terza categoria, nel senso che trovo irragionevole il fatto che si possono porre dei limiti alla libertà personale per un periodo così lungo. cioè, scusi, ma scusi, un attimo solo. Se l'interesse generale, la salute generale di tutta la popolazione dipende da queste norme, che c'entra la libertà individuale, mi faccia capire. C'entra e come? Il discorso. Lei non può essere libero, può essere libero di minacciare la salute degli altri, scusi, non può essere una libertà questa. Sono libero, no, ma assolutamente, io sono libero di non. Ma se io sto bene, cosa minaccio? Mi permetta. Ma allora, il problema, non ci sono oggi strumenti per capire se chi sta bene. Non ci sono strumenti per dare una patente a chi sta bene, tu stai bene e starai sempre bene e non contagi nessuno. Ma non si sa ancora. Bene, lo sa il Padre Eterno, quindi io scarterei questa ipotesi. Però rischia lei come fa a sapere? Scusi, come fa a sapere di non essere un portatore sano di Covid? Come fa a saperlo? Io, infatti, la cosa che, per quello che stavo dicendo, è ragionevole il fatto di pensare di tenere tutti a casa a prescindere da sapere se uno con le conoscenze di oggi o di quelle che si svilupperanno da qua a un mese è portatore sano oppure no, o comunque a prescindere, il portatore sano, o meglio il portatore asintomatico, perché se è un portatore sano sì, ho capito tutta questa chiacchierata è un discorso filosofico, è il discorso a tutti pesa, che pensa che a me non pesa starmi dentro casa da 2 mesi, la stessa cosa, finché non ho certezza che io non porterò danni ad altre persone e non avrò rischio io anche 65 anni, io mi attengo strettamente a queste regole. Lei non può dire che sono libero di uscire, perché, io sono a casa tranquillo e beato, però comprendo il fatto che le persone possono avere un rischio nel momento in cui c'è una pandemia, però non è che la pandemia può durare 100 anni, perché se non viene risolto il problema dell'accertamento della salute, quelli che possono... È chiaro. È la domanda da 100 pistole che tutti si pongono. Sarà possibile fare uno screening nazionale per determinare i livelli di sicurezza in alcune fette della popolazione, per rimetterla comunque innanzitutto nei meccanismi di lavoro, che sono quelli che fanno più parte dell'economia, poi anche per andare in vacanza? Vedo un po' singolare le vacanze soltanto per chi c'ha la patente che sta bene e gli altri stanno a casa, cioè è un po' difficile pensarlo rispetto a un'attività ludico-ricreativa. Capisco, anche io sarei tentato a dire, ma sì, usciamo tutti, andiamo tutti fuori, succede quel che succede, i forti sopravvivono, i deboli se ne vanno. Anche questa è un'ipotesi, non è che dico, l'ho messa come terza ipotesi, quindi non è che voglio censurare il suo modo di pensare, però ritorniamo a un discorso che è applicabile a tutto, al lavoro, applicabile a fare la passeggiata, a fare la corsetta. Tanta gente mi dice, che faccio di male se faccio una corsetta, tanto la pista ciclabile è vuota. Non mi va nemmeno più di rispondere a questo tipo di domanda, mi sembra talmente logico. È un momento in cui tutti facciamo dei grossi sacrifici per un bene pubblico, non essendoci strumenti per darci dei suggerimenti di comportamento altrettanto sicuri che rinunciare a tutti qualcosa. Questa è la realtà dei fatti, dispiace a tutti, anche a me dispiace. Baldo, Eraldo, provincia di Trento. Eraldo. Ciao Gianluca, ma io credo invece che sia importante pensare un po' diversamente. Quando noi parliamo, stiamo parlando sempre di mare, di mare, di mare. Ma noi abbiamo delle bellissime montagne in Trentino, non è che sto facendo gli spot pubblicitari, però ci sono località turistiche piccolissime dove non c'è il turismo di massa, dove tutta... cerchiamo quei luoghi piccolini, quei paesi in mezzo alla montagna, come so io qua in Trentino. Lei ha perfettamente ragione, è giusto quello che dice, però le pongo subito cosa le risponderebbe un esperto. Benissimo, gli italiani dovranno rinunciare ai luoghi più difficilmente circoscrivibili da norme di sicurezza, quindi no le spiagge, andate tutti in montagna. Mettiamo, se per assurdo cambia, chi andava al mare va in montagna. Comunque i paesini piccolini... Eh sì, posti enormi, ma se scoppia un focolaio in quei paesini dove li mettete? Mica li potete mettere nell'alpeggio a passarsi. Ho capito Gianluca, ma se scoppia in una spiaggia dove ci sono 5.000 persone, capisci che è completamente... uno dei problemi è questo. Gli esperti stanno dicendo, benissimo, apriamo gradualmente le spiagge, ma se scoppia un focolaio in un posto di mare, se a Riccione improvvisamente accade quello che è accaduto a Bergamo, dove le mettete le persone? Esatto, sono domande lecite. Gianluca, è per questo che ti dico, noi siamo in montagna, io sono in una valle dove non c'è il Covid-19. Cioè voglio dire... ci sono posti dove non è arrivato, ma non è arrivato per... e fai delle vacanze bellissime in mezzo alla montagna, in mezzo alla natura. Scusa, ma ti sottolineo il controsenso, quello che stai dicendo. Non è arrivato perché non è arrivata la gente. Se voi aprite le strade cinesche, ma hai un controllo, cioè se sono ritorniamo al punto di partenza. Sì, punto di partenza. Al momento non c'è possibilità di fare uno screening di massa e definire chi in questo momento può essere considerabile non a rischio per il resto della popolazione. Possiamo trovare una persona, fa il tampone, dice benissimo, in questo momento sei negativo e stai tranquillo, tu puoi andare dove vuoi perché sei negativo. Benissimo, dovresti rifargli il tampone, però anche nel periodo che intercorre da quando parte da casa sua, fa il rifornimento, si ferma a mangiare al ristorante, arriva nell'apposto in montagna dove tu lo accogli, dovrebbe far subito un altro tampone, perché nel frattempo si è esposto ad altre persone. È molto complicato, non è così facilmente risolvibile. Romano, provincia di Rieti, no, qual è la tua posizione? La tua posizione? Guarda, io sono per far sì che le vacanze quest'anno tutti le saltino. Per un motivo molto semplice, perché ascoltando anche gli interventi che ci sono stati nella tua trasmissione, soprattutto quelli ovviamente degli imprenditori, dell'albergatore, che ha affermato che o si muore di Covid o si muore di fame, questo mi suscita un po' di grandi perplessità, perché se l'approccio è questo, io come posso essere garantito che questa gente con questo tipo di approccio, ok, della vita o della morte, che poi si sa che non è così, ma approccio manifestato, con chi sì, è giusto che ci sia un momento difficile, è chiaro, sì certo, che sia un momento difficile è grave, ma di fronte alla morte certa di alcune categorie deboli per Covid e dire prima che in Italia muoia qualcuno di fame, secondo me non voglio sottostimare le grossissime difficoltà che stanno attraversando alcune frange deboli della popolazione. Morire di fame è una frase forte, prima di morire di fame ne passerà comunque. Ci sarà un danno economico enorme, delle persone avranno delle difficoltà da piangere, non poter fare la spesa, si dovrà provvedere al sostentamento di chi ha bisogno, ma non credo che sul tema delle vacanze si ponga il problema del morire di fame, secondo me, perché non vorrei dire bestialità, c'è stato un momento nel nostro paese in cui non c'era un'industria del turismo così sviluppata, la gente comunque sopravviveva, faceva altre cose, è una cosa che è venuta assieme al benessere, assieme al nostro emanciparci da una condizione di economia casalingo rurale. Oggi naturalmente il mondo è un pochino cambiato e questo cambiamento, ci rendiamo conto, ci sta costando molto caro anche in questo momento. Ci fermiamo solo un istante. Sono ipotizzabili delle restrizioni particolari, ad esempio svolgere le vacanze nella regione di residenza, nella sola regione di residenza. Guardi, io non so rispondere, ma credo che nessuno sappia rispondere. Proviamo a chiedere al professor Antonelli se dal punto di vista scientifico lui ci può dare una risposta. Professore, che dice? In tutta onestà penso che nessuno veramente lo sappia e quindi qualsiasi risposta che dia un dettaglio preciso non sarebbe molto attendibile. Questo è preso dalla rituale conferenza stampa del pomeriggio, in cui naturalmente la domanda che si è posta sulle vacanze, perché sempre più verrà posta man mano che migliora la stagione, gli esperti, che sono le persone che in questo momento hanno maggior titolo di parlare, perché sono persone che conoscono gli effetti di un'epidemia, stanno studiando il virus, conoscono le tecniche, diciamo, di contenimento e di sicurezza nazionale, e dicono al momento non c'è risposta. Noi non vogliamo dare delle risposte, però poniamo tre scenari che secondo noi sono gli scenari possibili. Si va in vacanza con rigide, ferre misure di distanziamento sociale, di sicurezza, di igienizzazione. Saranno vacanze molto condizionate, contingentate e molto difficoltose, ma comunque sarà qualcosa che assomiglia a una vacanza. o non ci si va per niente, piuttosto che questo ci si organizza e continua questa lunga estenuante quarantena domestica con magari piccole finestre di apertura, ma nella regione, come ha detto l'esperto, in cui uno si vive. Chi vive a Roma va a Villa Borghese, certo ci si andrà in pochi, ci si andrà in certi orari, non si potrà affollare, non si potrà giocare a girotondo o a mosca cieca, ci si va per respirare un po' d'aria. O l'ipotesi che vedo emergere molto preponderante nelle risposte degli ascoltatori, dire sentite basta, non ce la facciamo più, sfidiamo il coronavirus, usciamo, che sarà mai, vogliamo mettere di fronte al fatto che alla fine moriranno le persone più deboli, staremo attenti per quanto possibile, io sto bene e rivendico la mia libertà individuale, come ha detto l'ascoltatore. Non vorrei fare l'uccello e il malaguro, ricordo che ai tempi della Spagnola del 17 ragionarono alla stessa maniera, a un certo punto uscirono tutti e poi venne un'ondata di morti 5 volte superiore a quella che è stata la prima fase della Spagnola. Silvano, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, quello che volevo dire io sono per l'ultimo per cui liberalizzare a certe condizioni, nel senso che sentendo tutti i virologi a livello internazionale, soprattutto dalla Cina, sappiamo che il tampone serve qui ed ora e non domani, per cui per me il tampone non serve. Per far girare la gente va benissimo il test serologico, ovvero la punturina, come dice Galli, sul ditino. No, senta, scusa, lei che fa? Silvano, qual è il suo mestiere, solo per capire, così definiamo la sua... Lei cosa fa di lavoro? Di lavoro mi occupo dei trattamenti biodinamici nelle produzioni agricole, mi occupo della commercializzazione dei 5 aziende. Cioè biodinamici, cioè quelle cazzate che si sotterra una scarpa vecchia e viene fuori l'agricoltura? No, assolutamente no, lo studio in base a quello che sono gli organismi naturali. Sì, vabbè, ho capito, Silvano, continua a occuparsi di biodinamica. Feromoni, certo, come no, continua a occuparsi di quello, però mi scusi Silvano, non vada a disquisire su quello di cui discutono persone che hanno fior di lauree e fior di specializzazioni. Lei studia fenormoni che rendono migliore l'agricoltura, pieno rispetto, è una cosa che è lecita, non fa male a nessuno, se non vuole può benissimo seguire l'agricoltura biodinamica, l'abbiamo parlato a lungo, è qualcosa che assomiglia un po' alla magia, ma però va bene anche la magia se non fa danno a nessuno. Pierluigi, provincia di Roma. Sì, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Io sono nella seconda categoria, ma non tanto per una necessità dello spirito, nel senso di dover andare in vacanza, ma anche per una necessità che poi sarà, temo, anche fisica. Voglio dire, negli ultimi 15 anni noi studiamo dati da satellite e monitoraggio ambientale, abbiamo avuto una successione incredibile di onde di calore estivo, soprattutto con impatti pesanti nelle nostre città. E sappiamo benissimo che nelle città si arriva a temperature che superano anche i 40, si arriva anche a 45 gradi, con impatti pesantissimi di notte. C'è uno studio recente dell'Istituto Superiore di Sanità. Sì, sì, ma questo lo sa benissimo. Chi rimane in città lo sa bene, fa caldo in città. Ha ragione. Chiudo soltanto con questo. No, ha ragione, mi dico di no. Dobbiamo vedere come evolve la questione epidemiologica, dobbiamo vedere quello che si potrà veramente fare. Certamente consentire una qualche forma di evasione dalle città nel periodo più caldo, cioè di luglio e di agosto. Ma lo dovrebbe fare, scusi, per seguire il suo ragionamento, bisogna dire le categorie più deboli, cioè gli anziani, le persone più esposte, hanno diritto alla vacanza perché per loro sarebbe più difficile stare in città, quindi tutti i giovani stanno nelle città, si beccano il caldo, o come se lo sono sempre beccati gli anziani che non potevano andare in vacanza, e tutti gli anziani vengono mandati nei pochi posti aperti con le norme di sicurezza, stanno più sicuri. Se volessimo fare una vacanza che tenga conto delle necessità delle categorie deboli, in vacanza ci va soltanto chi è più esposto, quindi chi più si creano dei posti in cui in termini di massima sicurezza poi respirano almeno l'aria buona invece che star chiuso dentro casa, per paradosso. Quello che ha detto Nicoletti è assolutamente giusto, perché tra le categorie più esposte al caldo estremo sono soprattutto gli anziani. Quindi lei pensi, lo sa cosa succede? è mai stato nei centri commerciali l'estate, vedi, queste povere persone che passeggiano nei centri commerciali senza aver nulla da acquistare, perché nemmeno possono acquistarlo, solo per beccarsi l'aria condizionata. Avremo delle situazioni che non avevo mai pensato prima di dover affrontare. Guardi, io poi non voglio essere frainteso, è bello andare in vacanza, è bello andare al mare, è bello andare in montagna, è bello respirare, è bello prendersi una vacanza. Non voglio dire che è un'attività di cui bisogna vergognarsi, dobbiamo solo cercare di capire qual è il margine in cui possiamo farlo senza mettere a rischio la nostra e l'altrui incolumità. Max, provincia di Monza, in Brianza. Max, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Cerco di essere rapido. Allora, sì, io mi sono collocato nella prima categoria, anche se ero indeciso fra la prima e la terza, non per ragioni classistiche, ma per questo motivo qua, che a me le cose, se si fanno, piace poterle fare bene e in condizioni dignitose. Ora, l'idea che uno debba andare in vacanza non intesa come cosa anche sociale, cosa di apertura di orizzonti, di parlare con la gente, i bambini che giocano, ma essere portati semplicemente perché bisogna prendere aria come se si fosse degli animali al pascolo, allora a quel punto, se permetti, preferisco stare in città e non se ne parla altro. Cioè, sì, ma animali al pascolo, guarda, è un termine, scusi, no, un termine dispregiativo, secondo me, improprio in questa situazione. Perché animali al pascolo? Una persona che si sente fortemente oppressa dalla calura estiva e tutto è ben felice di essere portata comunque, se non può andarci con i propri mezzi. Non ragioni soltanto sulla sua equazione individuale, pensa un po' anche gli altri come potrebbero pensare. Tante persone direbbero sì, portatemi pure a stare meglio, ben volentieri. Chi di noi ha autonomia per andare dove vuole, quando vuole, nelle condizioni che vuole, deve anche rendersi conto che non è così per tutti. Beh, abbiamo toccato il tema delle vacanze, ne toccheremo altri nei giorni a seguire, perché di tempo per stare assieme ne avremo sicuramente tanto. Alla prossima!